voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. My name is Trinity. Trinity. The Trinity? That crack the IRSD base. Jesus. What? I just thought, you were a guy. Most guys do. Myself, where I can dream. Never ever have to wake up. È l'inizio della seconda parte di Eclettica, dell'ultimo volume della settimana, quello del venerdì, un venerdì estivo che vede sicuramente molti fra voi o in partenza o addirittura già in vacanza. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, Giulio Caperdoni che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com da utilizzare anche per l'iscrizione alla lista nera con cui ricevere le playlist settimana per settimana, e altro indirizzo internet myspace.com/eclettica, quello è lo spazio pubblico della trasmissione, per non citare il sito ufficiale www.radiorockfm.com. Chi sono quelli che vi siete appena ascoltati? Secondo me ben in pochi potrebbero averli individuati. Se vi dicessi TV on the Radio? Sì, TV on the Radio. Erano loro, Me Eye, il titolo del brano, da Warm and Scratchy, una compilation scaricabile gratuitamente dal sito dell'etichetta che l'ha creata, la Adult Swim, e tipicamente in queste compilation gruppi si lasciano un po' andare nel fare cose che altrimenti non farebbero, e ne abbiamo appena avuta una conferma. Anything, blood and dope and sin and gold. Here you can buy anything, blood. Poi un giorno il proprietario dell'Apex Club mi ha visto ballare e mi ha offerto $500 la settimana per ballare per lui. Ho messo le carte in tavola con Big Ed. Ed, ho avuto un'offerta di $500 dall'Apex Club di Bill Halloran. Flo disse, se puoi spuntare $500 la settimana, non ti metterò certo i bastoni tra le ruote. Ci stringemmo la mano ed io andai da Bill Halloran con queste buone notizie, ma alcuni amici di Big Ed erano arrivati là per primi e quando vidi Bill Halloran le sue condizioni fisiche erano parecchio cambiate e lui era adesso solo una vocina acuta che veniva fuori da una scatola di sigari. Disse che aveva deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, di lasciare Chicago per trasferirsi più vicino all'equatore. Continuai a ballare per Big Ed Wheeler finché la ganga di Al Capone non lo rilevò. Dico rilevare, ragazzi, ma la verità è che Scarface gli offrì una buona somma, ma Wheeler disse di no. Più tardi, quello stesso giorno, stava pranzando alla Spaghetti House quando la sua testa si incendiò. Nessuno seppe mai perché. Comprai il Tris di due coi soldi che avevo risparmiato e in poco tempo divenne il posto più frequentato in città. Venivano tutti, Babe Ruth, Jack Dempsey, Jolson, Manowar. Manowar era lì ogni sera. Dio mio, quanto beveva quel cavallo. Mi ricordo una volta che Babe Ruth aveva preso una cotta per una ballerina di fila che si chiamava Kelly Swain. Era così pazzo di lei che non poteva concentrarsi sul baseball e due volte si unse il corpo convinto di essere uno di quelli che traversano la Manica. «Flo», mi disse, «sono cotto per quella rossa, Kelly Swain, ma lei odia gli sport. Ho mentito e gli ho detto che davo un corso su Wittgenstein, ma credo che sospetti qualcosa». «Riesci a vivere senza di lei, babe?» gli chiesi. «No, Flo, sta distruggendo la mia personalità. Ieri ho avuto 4 hits e mi sono fatto 2 basi, ma siamo in gennaio e non è stagione. L'ho fatto nella mia stanza d'albergo. Puoi aiutarmi?» Gli promisi di parlare con Kelly e il giorno dopo andai al mattatoio d'oro dove lei ballava. Dissi, «Kelly, il bambino è cotto di te. Sa che ti piace la cultura e lui dice che se gli darai un appuntamento, lui rinuncerà al baseball e si iscriverà alla compagnia di danza della Martha Graham». Kelly mi guardò fisso negli occhi e disse, «Di a quel bamba che non sono mica venuto da Chippewa Falls per finire tra le braccia di un giocatore di baseball. Ho progetti grandiosi io». 2 anni più tardi sposò Lord Osgood Wellington Tuttle e divenne Lady Tuttle. Suo marito rinunciò ad un'ambasciata per giocare a baseball con i Tigers. Lo chiamano Joe Salto Tuttle. Detiene il record del giocatore colpito più volte in testa nel primo turno di gioco. Questo era ancora Tempi felici, ricordi della tolleranza, da citarsi addosso, di Woody Allen. Thank you. Eclettica, vi siete appena ascoltati le islandesi Amina, Sexfaldúller, il titolo del brano in questione, sempre che in islandese si pronunci in questo modo, non ho possibilità di verificare. Ovviamente ogni aiuto è benvenuto a giulio@radiorockfm.com. Prima ancora Life with the Thrill Kill Cult, ed ora si prosegue con un brano di Giorgio Gaber, che però ci ascoltiamo nella versione rifatta dai Mariposa. Finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era l'uomo più antirazzista. Un giorno sua figlia sposò un uomo di colore. Lui disse bene, ma non era di buon umore. Ad una conferenza di donne femministe si parlava di prendere coscienza e di liberazione, tutte cose giuste per un'altra generazione. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione. Libro di psicologia, ho imparato a educare mio figlio. Se cresce libero il bimbo è molto più contento. L'ho lasciato fare, ma è venuto l'esaurimento. Il mio amico voleva impostare la famiglia in un modo nuovo e disse alla moglie: se vuoi mi puoi anche tradire. Lei lo tradì, lui non riusciva più a dormire. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione. Aveva tante idee, era un uomo d'avanguardia. Si vestiva di nuova cultura, cambiava ogni momento. Ma quando era nudo era un uomo dell'Ottocento. Ho voluto andare ad una manifestazione, i compagni, la lotta di classe, tante cose belle che ho nella testa ma non ancora nella pelle. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione. have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 41, volume numero 5, indice, Falls, The Willows, Frog Eyes, David Van Der Velde, Art in Manila, You Say Party, We Say Die, TV on the Radio, My Life with the Thrill Kill Cult, Amina, Mariposa, Fridge. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a lunedì prossimo, sempre alle ore 19 su Rock FM.